cos'è? Ma Windows, dai. Credo asilo. Allora, K, oggi, se non faccio male i calcoli, è l'ultimo venerdì dell'umanità, perché poi venerdì prossimo finisce il mondo, quindi non conta, e oggi è... Ma come? Eh sì, è così. Oggi, ma allora venerdì... bisogna festeggiare, ma Drago. Cosa festeggi? Ma festeggiamo, come, come una, cosa? Una festa tristissima. Venerdì. Eh sì, venerdì è però l'ultimo venerdì di tutti i tempi. Cioè... Vabbè, ma cosa vuol dire? Da oggi in poi ci sono solo ultimi giorni. Ah. L'ultimo sabato, l'ultima domenica, l'ultimo lunedì. Sono tutti da festeggiare, a cominciare dal venerdì. Ma da festeggiare, sono feste tristissime, cioè, sono feste, sono feste tristissime. Ma che feste, Drago? Ma tu sta zitto e lasciati andare. L'ultima domenica. E ora, bambini, ricreazione. Permesso? Vieni, amico, vieni, prego, prego. Buongiorno. Ciao, buongiorno ragazzi. Ciao. Visto, avete appena aperto la gelateria? No, noi teniamo aperto sempre. Però, tutto scusi, l'anno. Ma scusi, lei non è mica quello della piadineria, della zuppa, della pizza? No, non somiglio di fascia, ma noi da getto tutto uguale a fascia, no? Comunque, senta, volevo un bel gelato, no? Gelato. Buono gelato, sì. Una coppa, vi do una coppetta, avete da... Una coppa? Vuole di cono, di cialda o di coppetta? No, non mi piace il cono, la cialda non mi piace, voglio la coppetta, mi dà una bella grande, da quella da 4. Una coppetta, prendi coppetta quella grande. Quella da 4 euro? 4 euro? 4 euro. Allora mi dà, i gusti sono quelli lì, aspetti un attimo, eh. Allora mi dà... stracciatella. Quanti gusti ci stanno? 4 gusti metto. 4 gusti e poi uno regalo, dai amico, non preoccupi. Prendi allora, quello che ti piace. Allora, stracciatella. Non tengo stracciatella. Come no, lo tengo? No, stracciatella e sta ma con un po' di particolare con di spezie, capito? Cioè, vabbè, più saporito. Vabbè, bella dia. Sì, ma è finita. Come, vabbè, allora è inutile che me lo dicono. Cioè... Ho finito stracciatella, ha finito proprio con di spezie, è venuto uno ragazzo portato. Sì, ma la spezia è Liguria, no? C'è il porto. Sì, è di spezie, capito? Fermato di porto dentro. Vabbè, una senta, nave, questi non sono affari miei. No, questi non sono affari miei, io... Volevo mangiare gelato. Allora facciamo così. Allora mi dai yogurt. Di yogurt. Dovresti prendere un poco di yogurt. Ragazzo. Di negozio fianco. Vada a Anna Maria. Come negozio a fianco? Cosa c'è del negozio a fianco? No, perché di yogurt... Ma di fianco c'è un negozio di casalinghi. Sì, perché yogurt non va tanto, capito, amico? Allora ogni tanto io prendo, esco, vedi di Anna qua a fianco e no, prendo, Anna, no? Chi è Anna? Io voglio quel gelato questo qua. Allora facciamo così. Mi dia allora, cioccolato con fondente, quello bello scuro, quello lì. Cioccolato fantastico, de gusti, allora, proprio intendi, allora, buonissimo. Allora, faccia così, una bella abbondante di cioccolato, facciamo metà di cioccolato. Io mangio tutto il giorno qui cioccolato, non posso guardare che mi viene moglie di mangiare, capito, amico? Mi brando tutto, finito, mangiato tutto. Ma scusi, lei fa il gelataio, fa la gelateria, vende e poi se li fa buoni li mangia lei. E se gli viene male invece lo vende, non ho capito. Noi stiamo portando avanti, amico, perché di gelato sta tanto tempo, no? Allora il yogurt finisce ma non piace. E poi dopo c'è il cioccolato, dove provare. Ho provato mio figlio ed è buono. Ed è buono, quindi la prossima settimana... E l'altro fermo di la spezia. Allora la faccia porto. Così. Allora mi dia la zuppa inglese. Il gusto zuppa inglese quello lì. Zuppa inglese e aspetta zuppa inglese. Vuoi, ma devi vedere se è avanzato di zuppa inglese un poco di gelato. Finito ieri zuppa d'inglese. Ma scusa, non avete neanche ma che gusti avete? Non avete neanche dei gusti? No, ma amico, fa freddo, capito? Che il gelato non è tempo di mangiare gelato ora. Io ho portato etichetta per gelateria perché adesso arriva in primavera. Ma primavera? Ma se siamo ancora a dicembre, ma scusi, ma poi... Ma fa freddo per mangiare gelato, d'inverno non mangio gelato. Vabbè, basta, ho capito, vabbè, allora, senta, mi dia un semifreddo, faccio un semifreddo, quello che avete, sono invernale. Semifreddo alla marena. Forse è avanzato semifreddo perché ha mangiato... Semifreddo alla marena perché non è invernale, si può mangiare in inverno perché... Semifreddo perché non è freddo. No, ha avanzato anche lui, ma finito perché il semifreddo anche lui portare d'estate e primavera. Ho capito, vabbè, allora perché ora fa freddo. Ora, è vero. Mi dia una meringata, mi dia una meringata. Ma è butto, io ho gelato con il cioccolato. Ma c'è scritto sul menù? No, per questo estate, capito, amico? Scusa, no, perché scusa, non puoi mettere a fare un cartello e dice in quest'estate apriremo e faremo dei gelati buonissimi, perché uno viene qua. Beh, perché è normale, capito? È da gitto d'inverno, non mangi. Vabbè, allora faccio così, questi qua ce li avrete, che sono anche quelli preconfezionati, no? Il profiterol. Profiterol, avete? No, no, noi facciamo solo gelato artigianale di casa di famiglia. Provare in casa, quando buono portare. No, voi quando noi provare in casa e basta, perché voi provare in casa, provare buono, mangiare tutto e gelateria non esserci niente. Io arrivo avventore, bambino, quindi potenziale consumatore che d'estate con la paghetta prende un sacco di gelati, no? Ah, beh, di quest'estate io ti faccio trovare anche di chilo di... Ma voi mi fate assaggiare adesso qualcosa, no? Mi dia... Ci avete? Mi dia un budino, un budinetto. Ma avete un budinetto? Avete pensato qualcosa? Borti, porta pizza, no? La pizza con il babarone puoi mangiare. Ma ora no, che fa pizza peperoni? Ma con un babarone soltanto se... Ma no, ma io, a parte che voglio il gelato, ma allora vede che c'ho ragione io, voi sarete tutte che vi assomigliate. Tutte le faccio uguali, ma tutte mi dite sempre da sta pizza dei babaroni. Mangi pizza d'inverno che fa freddo, con forno a legna, carta, metto in terra d'ovaia, regalo... No, no, che tovaglia, regalo allora, di bere, tu con tua ragazza, uguali, vieni qui. Di faccia. Vieni qui, vado, amico, eh? Io regalo pizza di babaroni, dove vai? Metto per terra tovaglia, vengo qui, io ti occupo, ti prendo tutto quello che ti serve e di quest'estate regalo gelato, capito? Tu vieni qua di quest'estate e che io regalo gelato, gelato di cioccolato, di meringa, di paese, di spezia fermato del porto di Genova e è arrivato. Dopo quando arriva, provare e se piace, tu mangi, ma io regalo, capito, amico? Allora, giorni fa è morto il papà del porno italiano, Riccardo Schicchi. Invece il nonno del porno italiano è ancora vivo e vegeto. Io ritorno con disperazione a interessarmi della cosa pubblica e lo faccio in questo caso ancora per senso di responsabilità. A proposito di questo. Allora, in giro per il mondo c'è un po' di agitazione, K, non tanto per la fine del pianeta, quanto per gli extraterrestri. Ah, formigoni. Perché formigoni è un extraterrestre, cosa dici? Beh, potrebbe essere, scusa. Può darsi, però. Però il fatto è che dice di aver visto un UFO. Ma chi? Formigoni. Ma quando? Ma cosa dici? Ha scattato una foto a Parigi, Formigoni. Era ospite da qualcuno, dove si vede una grande luce in cielo, capito? Sì. Lui l'ha messa su Twitter e si chiede: ma è un UFO a Parigi? No, ma scusa, ma Formigoni vede una luce in cielo e pensa agli UFO, ma dove è finito l'uomo di fede? Vabbè, allora, quindi io veramente pensavo a Borghezio prima, quando dicevo che c'è agitazione. Borghezio anche... e Medvedev, anche lui, non so mai come si dice. Il primo ministro russo, sì sì. Primo ministro o presidente, non so mai. Vabbè, perché si alternano lui e Putin, uno una volta fa il ministro, l'altro presidente, viceversa. Ma adesso... Borghezio e Medvedev li metti insieme perché? Perché Borghezio si sa che sta conducendo da mesi, anni, una sua particolare battaglia sul fatto che esistono gli alieni e che c'è un complotto per tenere nascosta alla gente questa verità. Ma la cosa più bella è che Borghezio ce l'ha particolarmente con gli Stati Uniti e la Russia, perché sono i paesi detentori, secondo lui, dei segreti più pazzeschi sugli alieni. E dalla Russia ecco che un fuori onda di TV di Medvedev sembra dare ragione a Borghezio. Vabbè, su YouTube ci sono le versioni sottotitolate in tutte le lingue del mondo e quindi potrai vedere che si dice che al Cremlino, dice Medvedev, esiste una valigetta in cui sono contenuti tutti i documenti che provano le frequenti visite di alieni sulla Terra. E poi dice anche che per capire tutto basta guardare attentamente il film Men in Black 1. Men in Black 1. C'è uno che si chiama K in Men in Black 1. Ah sì, sei tu. Anche nei sequel. Ma perché i sequel invece non vanno bene. I sequel sono come sempre delle cagate, ha detto Medvedev. Borghezio come ha reagito? Ecco, contentissimo, perché la sua trasmissione a Radio Padania, Padanismo e vita extraterrestre, ha fatto registrare un picco di ascolti, da 2 a 5. Cosa? Ascoltatori, cioè Padanismo e vita extraterrestre è un programma un po' di nicchia, molto di nicchia. È un po' un programma della nicchia. Sì, comunque Borghezio non è attendibile per un sacco di motivi. Vabbè, certo, lui è non così. Ultimo che Borghezio è un credulone. Ha creduto fin qui nell'esistenza della Padania. Sì. Dai, l'acqua sacra del Monviso, il carroccio. Giussano, lì com'è. Alberto. Per forza che adesso crede anche negli alieni. Ma però non sarebbe male. Immaginiamo un incontro tra Borghezio e un alieno, no? Pensa che bello, cioè Borghezio rappresentante ignorante degli abitanti della Terra che riceve una delegazione aliena. Proprio così. Altro che extracomunitari, gli alieni. Eh sì, un incontro ravvicinato del terzo tipo tra Borghezio e un alieno. Ancora meglio sarebbe un incontro ravvicinato del quarto tipo. Che sarebbe? È un incontro molto ravvicinato, no? Che l'alieno vede Borghezio e... Mancano 6 giorni alla fine del mondo.